dividerei profondamente due rami della memoria, che è la memoria breve. Io non mi ricordo dove ho messo le chiavi, non ricordo cosa ho mangiato ieri sera, ho sempre un po' la testa fra le nuvole, perché sono un ansioso, sono una persona iperattiva, ho una velocità ideica molto forte e questa è la memoria a breve termine. Mi piace la velocità ideica, mi piace. Esatto, però questi soggetti però molto spesso, quasi sempre, anzi ricordano cosa hanno fatto nella prima comunione, cos'è successo nel loro matrimonio, gli invitati, quindi la memoria vera, quella antica, rimane intatta. Se così non è, sono dolori, perché quando viene intaccata la memoria vecchia, quella antica, allora ci sono delle micro lesioni cerebrali. La memoria, la perdita di memoria, quella breve termine, quindi ripeto, non so che ho incontrato ieri perché sono uno sbadato, è in genere dovuta ad ansia. L'ansia è qualcosa di pazzesco, ci rende iperattivi, spesso abbiamo queste piccole perdite di memoria. Cosa accade? Beh, in questi casi le piante adattogene sono veramente pazzesche, ce n'è una in particolare che è un ginseng, pare un ginseng molto virgolettato, cioè non è quello che dà tono, che dà energia, cioè è un ginseng che calma e si chiama Witania somnifera. È una pianta che noi abbiamo studiato molto qui all'Università di Pisa e devo dire ha dato risultati splendidi. Perché? Perché calma l'individuo, lo rende più sereno, lo rende più forte, più attivo e soprattutto riesce a calmare quel velo di ansia che poi cosparge di nuvole alla sua giornata e il soggetto sta meglio. Se poi associamo anche altre piante più conosciute, tipo il biancospino, la melissa, eccetera, in genere questo soggetto, per fare un paragone con quello che diceva il collega prima, praticamente è come se ogni tanto staccasse la spina e si riposasse, invece lui continua a lavorare, prende queste piante medicali e sta veramente meglio. Si trovano in erboristeria, in farmacia, in qualunque... qualsiasi erboristeria, rammentando invece per le perdite di memoria violente, tipo quelle dell'Alzheimer, eccetera, c'è una pianta che ha avuto anche dei grandi accrediti presso riviste internazionali, tipo il Lancet, eccetera, che hanno invece un valore nel proteggere, nel, fra virgolette, nutrire la circolazione cerebrale, che è il ginkgo bilo. Il ginkgo biloba, l'unica pianta fossile che noi abbiamo, viveva al tempo dei dinosauri, è una pianta molto strana perché non si ammala mai. Noi stiamo studiando le difese immunitarie di quest'albero che non si ammala praticamente mai. Le foglie e le tinture madri che derivano dalle foglie, eccetera, possono essere di aiuto in patologie anche gravi e questa è una notizia bella.